e alla sbranda Matti Schianti, e alla sbranda Matti Schianti. DJ Starks, produzioni estreme, DJ Stivo fa il beat. Vengo da Cesena e questa non è la solita canzone rocchettara scema. Avveleno il tuo palato dai fighetti, film distrazione alternativi, sono disgustato. Vengo da Cesena e questa non è la solita canzone rocchettara scema. Avveleno il tuo palato dai fighetti, film distrazione alternativi, sono disgustato. Ingostatevi di pizzette al tavolo con fighe smesse, tornate a casa e fate il pieno di pugnette, sognate un vostro video amatoriale su YouPorn, pipparoli coi vostri abiti modaioli, andreste bene al gran galà dei maiali, dove tutti gli stronzi sono uguali e rotolano nella merda altrui. Ho avuto tempi bui, ma mai come questi, perciò sbocco parole innervosite. Il peggio è che mi è tornata la colite, le mie rime si sono deperite, vorrei cagar pepite, ed invece rigurgito sorprese squilibrate dalle mie giornate passate, sorseggiar Varnelli, affilare coltelli. Vengo da Cesena e questa non è la solita canzone rocchettara scema. Avveleno il tuo palato dai fighetti, film distrazione alternativi, sono disgustato. Vengo da Cesena e questa non è la solita canzone rocchettara scema. Avveleno il tuo palato dai fighetti, film distrazione alternativi, sono disgustato. E la sbranda non beve il mojito pisciato del chioschino, frequenta esclusivamente il baracchino ed è un casino, ma piuttosto che starmene su uno scalino a fumare paglioni al gelo, vado a imbroccare basagne biologiche al parallelo ed accendo un cero per ogni tardona, un altro per questa luvardona, frequentatrice di locali di tendenza coi pantaloni attillati che stringono un culo grande come una credenza. E i cessi? Quelli a prescindere mi stanno sui coglioni, le finte intellettuali con gli occhialoni, gli universitari vegani che fumano tabacco senza additivi, le fighette che mangiano barrette come pasti sostitutivi. Vengo da Cesena e questa non è la solita canzone rocchettara scema. Avveleno il tuo palato dai fighetti, film distrazione alternativi, sono disgustato. Vengo da Cesena e questa non è la solita canzone rocchettara scema. Avveleno il tuo palato dai fighetti, film distrazione alternativi, sono disgustato.